Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Vaccinazioni, parte la campagna anti-influenzale dal 12 ottobre presso i medici di famiglia e poi anche nelle farmacie sarà possibile ricevere contemporaneamente anche la quarta dose di vaccino anti-SARS-CoV-2. Il coronavirus intanto torna a crescere, contagi triplicati in 3 settimane, più pazienti in ospedale, ma la situazione dei ricoveri resta sotto controllo. Bollette energetiche, allarme dalle casse di riposo, costi quasi raddoppiati, il rischio è quello di un aumento delle rette. Il mare sostenibile a Trieste, 3 giorni di riflessione sul corretto uso della risorsa idrica, sui pericoli legati allo sfruttamento e sull'inquinamento. Ad aprire i lavori, il presidente della Camera Fico. L'addio ad Augusto Scimolai, molta gente a Vigonovo per uno degli ultimi grandi capitani dell'imprenditoria friulana, l'omaggio di Confindustria Nazionale. Episodi di microcriminalità in diverse aree di Udine, cresce l'allarme dei residenti. Riprese a Verzegnis, le ricerche di un 81enne scomparso da ieri, in campo anche le unità cinofile e un elicottero, l'auto dell'anziano ritrovata in una zona boschiva. Denunciate i cyberbulli e l'appello della polizia postale ai ragazzi di Trieste in un incontro pubblico al Porto Vecchio. Legno e arredo, il caro energia e la carenza di materie prime frenano la ripresa, i conti del settore sono comunque in crescita. Tutto il mondo di Banksy, presentata a Trieste, quella che promette di essere la mostra più completa sul misterioso artista di strada inglese. Il Carso devastato dagli incendi, tra i beni culturali al centro delle giornate Fai d'autunno, ieri la presentazione delle iniziative in regione. Pordenone Triestina, amaro di Coppa Italia, entrambe le regionali battute in casa per 1-0 ed eliminate dal torneo. Le 7:20 di giovedì 6 ottobre 2022, buongiorno da Eva Ciucca e Andrea Vardanega che condurranno questa prima edizione del giornale radio regionale. Il cielo è da variabile a nuvoloso sulla pianura e sulla costa, ma sereno o poco nuvoloso sui monti. Queste le temperature registrate alle 6, a Trieste ci sono 16 gradi e il mare è calmo con una temperatura di 21 gradi, a Pordenone, Udine e Gorizia 14 gradi e mezzo. In montagna Tolmezzo 15, Forni di Sopra 9, Piancavallo 6,5, Tarvisio 6, Sappada 4, Sullussari 11 gradi e tornando sulla costa a Lignano e a Grado abbiamo 17 gradi e la temperatura del mare è di 21 gradi. Le previsioni oggi al mattino, il cielo sarà in prevalenza variabile e anche nuvoloso su pianura e costa, sereno, poco nuvoloso in montagna. Da metà giornata la nuvolosità si diraderà gradualmente su pianura e costa, sulla costa soffieranno deboli venti di brezza. Campagna vaccinale in comune contro l'influenza e per la quarta dose. Le somministrazioni del virus stagionale cominceranno dal 12 ottobre presso i medici di famiglia e poi nelle farmacie. Ad esse si potrà abbinare il richiamo contro il coronavirus. Nella presentazione di ieri un nuovo appello alla necessità di proteggersi, specie per gli over 60 e i fragili, in un quadro dove obiettivamente la gente è stanca e confusa e questa pratica salvavita stenta a riprendere piede. La somministrazione potrà avvenire presso i medici di famiglia e presto anche nelle farmacie aderenti. L'antinfluenzale sarà gratuita per le categorie a rischio e, novità di quest'anno, nella stessa seduta ci si potrà vaccinare anche col richiamo anti-Covid che, dai dati regionali, continua a registrare una scarsa adesione. Dal 12 settembre ad oggi 16.400 le prenotazioni. In calo anche per l'antinfluenzale. Lo scorso anno la copertura è stata del 59% contro il 65% del precedente. La nuova campagna vaccinale contro l'influenza partirà dal 12 ottobre. Il presidente della regione Fedriga e l'assessore alla salute Riccardi, nel darne annuncio, hanno fortemente raccomandato la vaccinazione al pari della quarta dose che intanto nelle case di riposo sta facendo da barriera alla nuova ondata autunnale di Covid. A dirlo i gestori che segnalano contagi sporadici con qualche focolaio, benché i positivi presentino finora sintomi lievi che si risolvono in pochi giorni. La guardia però non si abbassa, si chiede di accelerare sulla campagna dei richiami ancora da ultimare. Per le visite dei familiari restano green pass rafforzato, mascherine e niente assembramenti. I tamponi tra gli anziani ora si fanno solo in presenza di sintomi e una volta al mese a tutti gli operatori, tra i quali pure si segnalano pochi contagi. Il peggio è passato, afferma il coordinatore delle 40 case di riposo di Federsanità della regione, Giovanni Di Prima. I nuovi positivi, spiega, vengono trattati come chi ha un'influenza lieve. Si va verso la convivenza con un virus che oggi preoccupa meno, fermo restando l'evoluzione del quadro in vista dell'inverno, aggiunge il presidente regionale delle strutture UNEBA del privato sociale Matteo Sabini. Ad assillare i gestori sempre l'emergenza infermieri e i rincari energetici. Lara Boccalonti, GR Friuli Venezia Giulia. E anche Federsanitari lancia l'allarme sui rialzi dei costi energetici nelle case di riposo, che rischiano di avere un impatto sulle tariffe a carico dei familiari e degli utenti. Da un sondaggio tra le strutture per anziani della regione, su un campione rappresentativo di un terzo dei posti letto, è emerso che in quest'ultimo anno i costi energetici sono aumentati dell'85% contro il 23% dell'anno precedente. Federsanità ha richiesto un intervento urgente di ristoro per l'anno 2022. La regione ha risposto convocando un incontro urgente con i gestori per il pomeriggio di oggi a Palmanova. Si stima un fabbisogno di 14 milioni di euro di ristori per il caro bollette solo per l'anno in corso. Il virus ha dunque ripreso a circolare in tutta Italia e nella nostra regione la diffusione è più marcata che nel resto del paese. La pressione sugli ospedali tuttavia non è nemmeno paragonabile a quella che si registrava nelle ondate precedenti. L'ultimo bollettino, quello di ieri, riporta 1689 nuovi casi, oltre 500 in più rispetto al mercoledì precedente. L'incidenza è di 694 casi per 100.000 abitanti in una settimana, dato che in tre settimane è più che triplicato. Il 13 settembre se ne contavano 226. I tamponi analizzati sono stati 6.670, il tasso di positività al 25,32%, ieri era vicino ai massimi storici. Il numero di contagiati in ospedale a sua volta è quasi raddoppiato in una decina di giorni, se ne contano 206, in maggioranza ricoverati per altre patologie e poi risultati positivi al tampone. I positivi nelle terapie intensive sono 8 e questo parametro è lontano dai livelli di guardia ormai da mesi. I numeri suggeriscono comunque la necessità di accelerare una campagna vaccinale che, come detto, va a rilento. Da un paio di settimane la quarta dose è disponibile per tutte le persone sopra i 12 anni ad averla ricevuta, 68.449 corregionali, il 16,11% della popolazione eleggibile, un dato ampiamente sotto la media nazionale. Un ospite di eccezione ad uno degli eventi collaterali della Barcolana di Trieste, il presidente uscente della Camera Roberto Fico, ha partecipato al Sea Summit, un evento in cui si ragiona sulla sostenibilità dell'utilizzo delle risorse idriche. Qualcosa di nuovo c'è. L'articolo 9,3 della Costituzione, che recita: la Repubblica Italiana tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. Il presidente della Camera, Roberto Fico, ritorna a Trieste dopo gli anni da studente universitario e parte da qui per dare concretezza alla parola sostenibilità. Si rivolge alla generazione Z, che al Barcolana Sea Summit è rappresentata dagli studenti delle scuole e delle università del Friuli Venezia Giulia. Io credo che oggi la transizione ecologica e il tema ambientale siano assolutamente centrali e l'ecosostenibilità dei mari e degli oceani è uno dei punti fondamentali. Si sta lavorando e il mondo comunque fa passi avanti su questo, ma bisogna andare molto più veloce. Barcolana, che si indirizza sempre di più verso la sostenibilità del mare, in particolare quello adriatico, cui dovrebbero partecipare tutti gli stati che vi si affacciano. Ritrovarsi e parlare è fondamentale, ma poi devono seguire i fatti. Il monito arriva da una giovane cofondatrice dei Fridays for Future Italia, Sara Segantin, che spiega cosa significa dare un senso alla parola sostenibilità. Vuol dire informarsi, vuol dire dialogare, vuol dire andare a votare, sfruttare tutti gli strumenti partecipativi possibili, vuol dire educazione e vuol dire sostenibilità nei trasporti, efficientamento energetico, comunità energetiche, mangiare meno carne e derivati, quelle piccole e grandi cose che l'una senza l'altra non portano da nessuna parte. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Molta commozione ieri a Vigonovo di Fontana Fredda per le esequie di Armando Cimolai, uno degli ultimi grandi capitani d'industria della nostra regione. La cerimonia si è celebrata nel Duomo della cittadina, ma molte persone rimaste all'esterno hanno potuto seguirla anche su maxischermo. A celebrare il rito, Don Giacomo Santarossa, che ha ricordato le doti professionali e umane di Cimolai, è definito un uomo generoso nei confronti della comunità. Confindustria Alto Adriatico ha partecipato con una delegazione guidata da Michelangelo Agrusti. Nelle parole del presidente, il ricordo di un grande uomo d'impresa, nello stesso tempo di una persona normale e umile che ha voluto vivere tra la sua gente. Un minuto di silenzio in memoria di Armando Cimolai è stato fatto osservare dal presidente di Confindustria Carlo Bonomi all'inizio del consiglio di presidenza del sindacato imprenditoriale. Alle 7:27 minuti passiamo alla cronaca. Gruppi di giovanissimi che compiono atti di violenza e microcriminalità in diverse aree di Udine. Le segnalazioni riguardano in particolare una galleria commerciale nel centro della città. Siamo andati sul campo a monitorare la situazione. Episodi da tenere monitorati, così li definiscono comune e forze dell'ordine. Protagonisti, minorenni come quelli che frequentano la Galleria Astra in pieno centro città, dove gli esercenti si dicono esasperati da bivacchi, ubriachezza molesta, sporcizia e atteggiamenti intimidatori. Non permettono a noi negozianti di vendere, continuano a chiedere soldi, sigarette, sono anche molto maleducati e arroganti. L'assessore alla sicurezza Ciani sottolinea che la galleria è privata e il comune non può intervenire. Dal canto suo, la nuova amministrazione della galleria dice di sentirsi lasciata sola da Palazzo d'Aronco e si è dotata di una guardia privata al pomeriggio. Lasci delle gallerie abbandonate e queste si popolano di quello che trovi. Diversa la situazione in Piazza Le Cella. Qui 47 minori stranieri non accompagnati, ospitati in una residenza, esprimono insoddisfazione per la mancanza di opportunità loro offerte. Tenere dei ragazzini senza far niente, senza studiare o senza lavorare, e mantenerli così per niente non è chiaramente colpa dei ragazzi. Bisognerebbe avere un progetto un pochettino più ampio per cercare di integrarli anche al tessuto sociale. Cerchiamo di tenerli il più possibile occupati con dei corsi, risponde la cooperativa, che gestisce la struttura, ma purtroppo ci dobbiamo scontrare con la realtà che il nostro territorio riesce a offrire in materia di formazione. In Friuli Venezia Giulia non esistono progetti per minori non accompagnati, parte del sistema di accoglienza e integrazione SAI, volto a favorire la continuità dei percorsi di inserimento socio-economico dei beneficiari. Si tratta dell'unica regione in Italia che non ne ha, assieme alla Valle d'Aosta. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sono riprese alle 7 nella zona di Verzenis le ricerche di Alberto Cacitti, un 81enne che non dà notizie di sé da 2 giorni. Questa mattina si è unito alle squadre di ricerca l'elicottero e il nucleo droni della Protezione Civile. Dopo la segnalazione dei familiari, da ieri pomeriggio Guardia di Finanza, Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco hanno cominciato a battere la zona. L'auto dell'anziano è stata ritrovata dai carabinieri in prossimità di Ponte Avonna, Tolmezzo, in un luogo circondato da un'area boschiva. 500 ragazzi di 8 scuole più altri 5.000 collegati in streaming sono gli studenti del Friuli Venezia Giulia che hanno partecipato all'evento Haters e Piccoli Eroi organizzato dalla Polizia Postale al Porto Vecchio di Trieste. Lo scopo dell'incontro è di accrescere la consapevolezza tra i più giovani dei rischi in rete, dove basta poco per trasformarsi in vittima o carnefice. Antonio Borrelli, dirigente generale della Polizia Cibernetica. Oggi qua noi a Trieste continuiamo la nostra campagna educativa sull'uso razionale, intelligente, sereno dei mezzi social. Quindi è una campagna educativa che viene svolta dalla Polizia di Stato e che portiamo in giro per tutta l'Italia. L'accento è caduto su uno dei pericoli maggiori, il cyberbullismo. Pietro Ostuni, questore di Trieste. Un fenomeno che ci preoccupa particolarmente perché una volta quando c'era il bullismo veniva fatto direttamente, si percepiva anche di più da parte dei ragazzi. Ma i ragazzi hanno capito che per muoversi nel web servono consapevolezza e rispetto per gli altri. Quello che fai, quello che dici sicuramente avrà delle ripercussioni, farà anche se piccola una differenza, almeno sui sentimenti di qualcuno. Il piccolo eroe della giornata è Valerio Catoia, ragazzo affetto da sindrome di Down e campione paralimpico di nuoto. Nel 2017 ha salvato una ragazzina dall'annegamento. Il suo gesto eroico ha attirato l'attenzione degli odiatori della rete che lo hanno bersagliato di insulti e offese. Valerio ha reagito e ha denunciato. Una lezione importante che, come sanno i ragazzi, vale a ogni livello. Fare possibile per aiutare e dire alla prof che questo bambino ha fatto questo e poi la prof decide di cosa fare. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Crescono in doppia cifra le assunzioni di giovani sotto i 35 anni. Il raffronto è tra il 2019 e il 2022 e riporta un incremento complessivo del 19% nella fascia fino a 24 anni e del 13% in quella tra i 25 e i 34 anni. I dati arrivano dall'assessore al lavoro, Alessia Rosoleni, intervenuta alla presentazione del Recruiting Day organizzato dalla Regione insieme al Comune di Udine. L'aumento, spiega Rosoleni, è tanto più significativo se si pensa che la fascia demografica degli under 34 in regione diminuita di 30.000 unità in 10 anni. Secondo l'assessore, la politica nazionale dovrebbe comunque affrontare il tema dei livelli salariali e quello delicato che tocca la legislazione sui tirocini, elementi fondamentali per accrescere l'attrattività del mercato del lavoro giovanile. Un altro fattore importante riguarda le aziende e la possibilità che queste offrono di modulare gli orari di lavoro. Bilancio positivo per la filiera del legno arredo, un settore che è tornato ad essere trainante ma che sconta, come tutti gli altri, il problema di reperire le materie prime e quello del caro energia. Con oltre 1 miliardo di euro di esportazioni e una crescita del 27% nei primi 6 mesi dell'anno, la filiera del legno arredo in Friuli Venezia Giulia chiuderà con un aumento a doppia cifra anche il 2022. Il comparto sconta però difficoltà di reperimento dei materiali, caro energia e inflazione, come è emerso dall'assemblea annuale di Assopannelli di Federlegno Arredo, organizzata all'Istituto Carniello di Bruniera, dove ha sede anche un laboratorio di ultima generazione per la formazione di tecnici per l'industria 4.0. Il presidente di Federlegno Arredo, Claudio Feltrin. Abbiamo percepito un piccolo rallentamento già nel secondo trimestre e sicuramente al rientro dalle ferie c'è un accenno di frenata importante. Dovremmo chiudere comunque con un aumento in doppia cifra, però dovuto anche al fatto dell'aumento dei listini prezzi che sono stati praticati dalle aziende. Il legno arredo in regione, dati 2021, ha un fatturato di 3,6 miliardi di euro e conta su 1.800 imprese e 19.000 addetti. La nostra è la terza regione che esporta di più a livello nazionale. Pordenone è la seconda provincia, dopo Treviso, con 1,3 miliardi di euro. Il presidente di Assopannelli, Paolo Fantoni. Le aziende stanno anche in regione riducendo di circa 10 giorni, 7 giorni la produzione di pannelli, perché in questo momento il costo dell'energia e del gas è stratosferico. Il gas rientra anche come componente chimica, perché l'urea è il nostro collante. Una grande partita in piedi in questo momento è quella di razionalizzare l'uso del legno come risorsa che prima deve essere valorizzata come materia nobile che crea valore aggiunto in manufatti rispetto alla valorizzazione termica. Bruniera, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Quali turismi per la montagna friulana? Il tema al centro di 1 a 2 giorni di lavori a Forni di Sopra organizzata da Dolomiti Mountain School. La Casa dei Fornese accoglierà alcuni tra i più importanti esponenti del settore per far emergere spunti e pensieri legati ad un tema di estremo rilievo, da un lato per la rinascita del turismo di prossimità e dall'altro per l'impatto che i cambiamenti climatici stanno avendo sulle Dolomiti e sulla montagna in generale. Tra i temi sul tappeto, il turismo compatibile, la storia e le prospettive di sviluppo del turismo del Friuli Montano e il rapporto tra le possibili strategie e il piano di sviluppo Carnia 2030. All'aeroporto militare di Rivolto, cerimonia di avvicendamento tra il colonnello Marco Bertoli, comandante uscente, e il colonnello Paolo Rubino, subentrante. L'evento sarà presieduto dal generale di divisione aerea Luigi Del Bene, comandante delle forze da combattimento dell'aeronautica militare. La cerimonia vedrà la partecipazione delle autorità civili e militari locali, oltre allo schieramento del personale militare e civile dello Stormo. Alle 7:36 minuti i temi della cultura, il Salone degli Incanti di Trieste si prepara ad ospitare quella che è già considerata come la mostra più completa mai organizzata in Italia su Banksy, il misterioso artista di strada inglese, titolo scelto The Great Communicator, circa una sessantina di opere provenienti da collezioni italiane e internazionali, tra cui alcuni straordinari dipinti di grandi dimensioni che saranno suddivise per generi e temi, fornendo ai visitatori le chiavi di lettura dell'opera di Banksy attraverso accurati apparati didattici. La mostra sarà integrata da centinaia tra oggetti, fotografie, memorabilia e videolavori di Banksy. A completare il quadro, il racconto delle sue radici e delle sue ispirazioni. Nella mostra saranno inoltre presentati attraverso un'installazione multimediale i murales che Banksy ha realizzato in tutto il mondo, oltre a immagini delle sue famose incursioni nei più importanti musei. L'esposizione su Banksy sarà ospitata dal Salone degli Incanti dal 25 novembre di quest'anno al 10 aprile 2023. Ieri la presentazione alla stampa, abbiamo intervistato il curatore Gianni Mercurio. Su cosa ha puntato per curare, per costruire questa mostra? Su un aspetto di Banksy molto poco esplorato, perché si parla di lui come della sua protesta soprattutto, giustamente, perché insomma, è importante, però nessuno ha mai affrontato un aspetto, secondo me, quello per cui passerà la storia dell'arte, non tanto per quello che ha fatto come artista in sé, ma per la sua grande capacità di comunicatore. Infatti la mostra si intitola The Great Communicator, che era una definizione che fu data di Reagan quando si presentò come candidato candidato alle presidenziali, perché lavora molto sulla comunicazione. Le sue opere sono messaggi che contengono degli elementi incongrui che attirano la curiosità e quindi ci spingono a capirne di più il senso, oppure le sue sono performance. Ricordo l'ultima della famosa distruzione dell'opera durante l'asta di Sotheby's, che ha fatto esplodere il valore già in quell'asta, cioè chi si comprò un'opera distrutta poi è stata rivenduta a milioni di più. Quindi questo aspetto della comunicazione, che coinvolge soprattutto le giovani generazioni per la sua utilizzazione dei social media e della tecnologia digitale, è fondamentale, noi vogliamo metterla in rilievo. Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia. Ritornano in tutta Italia le giornate FAI d'autunno, l'iniziativa con cui il Fondo Italiano per l'Ambiente riscopre il patrimonio culturale dimenticato o a rischio del nostro paese. Stavolta i riflettori non sono puntati solo su dimore storiche o collezioni artistiche di pregio. Tra i beni da visitare anche il Carso, devastato dagli incendi della scorsa estate. Il prezioso e fragile ecosistema del Carso, la cui sopravvivenza è stata messa a repentaglio quest'estate durante 2 settimane di incendi devastanti, è uno dei luoghi scelti dal FAI per le giornate d'autunno. Guide naturalistiche, volontari e ciceroni accoglieranno i visitatori al centro visite gradine della riserva dei laghi di Doberdò e Pietrarossa sabato 15 e domenica 16 ottobre per scoprire assieme l'ambiente carsico e gli eventi storici che lo hanno solcato e sconvolto. Sarà un'ulteriore occasione per imparare ad apprezzare l'habitat transfrontaliero che si è creato sulla roccia calcarea e che è candidato dal FAI nel censimento i luoghi del cuore per agevolarne la tutela. Altre 6 località in regione saranno illuminate dalle giornate FAI d'autunno. A Trieste si andrà alla scoperta della filiera del caffè visitando alcune torrefazioni. I mosaici saranno tra le mete proposte a Sequals assieme alla villa di Primo Carnera. A Zoppola si entrerà negli stabilimenti della cooperativa produttori patate. Si visiterà quindi una distilleria e si entrerà al castello e nel laboratorio di Stefano Ius. A Cividale un percorso guidato porterà alla riscoperta di Leone Morandini, del Museo Cristiano e del Tesoro del Duomo. Destinazioni delle giornate FAI d'autunno anche Manzano e Faedis, con l'apertura per l'occasione dell'acetaia Midolini e della visita delle chiesette di San Rocco e di Santa Maria e del vigneto centenario. Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Nelle giornate di oggi e domani sarà possibile visitare la mostra I mezzi scafi di Carlo Sciarelli, da strumenti di progettazione a oggetti d'arte, allestita presso la sala riunione al piano terra della Capitaneria di Porto di Trieste. Per la prima volta viene esposta al pubblico una parte delle opere provenienti dalle collezioni private di colui che è stato ribattezzato l'architetto del mare, ora custodita nel fondo Carlo Sciarelli dell'archivio storico dell'Amodiano. In mostra 20 mezzi scafi che sono stati utilizzati da Sciarelli sia in fase di progettazione per comprendere quali linee di costruzione prediligere, sia per abbellire le pareti del suo studio personale. Sono inoltre esposti alcuni modellini di imbarcazioni da lui realizzate ed un suo bozzetto su carta tracciato a matita e penna nel 1998. Promossa dalla LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, che quest'anno ha celebrato 100 anni di attività, torna in ottobre su tutto il territorio nazionale la campagna Nastro Rosa per la prevenzione del tumore al seno, una malattia che, se diagnosticata precocemente, può essere curata con successo. Una campagna che a Trieste si articola su diverse iniziative ed eventi pubblici di informazione, prevenzione e sensibilizzazione, che vede alleati a fianco della LILT, l'Università degli Studi e l'azienda sanitaria. La LILT sarà presente anche alla Barcolana con una raccolta fondi per pazienti oncologici. Ci ha raccontato le iniziative che metterà in atto l'Ateneo Triestino Vanessa Nicolin, docente di anatomia umana dell'università. Questa giornata è molto importante non solo per ciò che verrà discusso e si parlerà di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, ma anche nell'ottica che ciascuna delle persone che verrà ad ascoltare i nostri esperti sarà a sua volta ambasciatrice di tutte quelle che sono le caratteristiche della prevenzione. Quindi loro potranno parlare di stili di vita, potranno parlare di che cosa si fa per evitare di avere un problema, dello screening, dell'importanza di uno screening personalizzato. Ecco, questo sarà molto importante da discutere e soprattutto come messaggio da portare anche a casa. Quali sono le fasce d'età più a rischio? Ultimamente sono anche le fasce d'età giovanili. È per questa ragione che abbiamo pensato di accostare allo screening attivo promosso dalla Regione una valutazione di rischio del personale femminile dell'Ateneo compreso fra i 18 e i 45 anni, con un molto particolare aspetto di attenzione per le donne tra i 18 e i 35, dove in questa giornata e nelle seguenti verrà fatta a chi desidererà farlo, in particolare 143 dipendenti dell'Ateneo a pieno regime, una valutazione del rischio di contrarre questa patologia. È una patologia che, ricordiamo, ha visto diminuire drasticamente la percentuale di mortalità. Significa che la prevenzione funziona, perché significa che il tumore si trova prima e quindi è più facilmente aggredibile. Esattamente, sì. Fare prevenzione vuol dire avere la possibilità di rintracciare delle neoplasie con diametro molto piccolo e quindi molto, molto, molto curabili. Pensiamo che ad oggi la neoplasia alla mammella è curabile al 90% dei casi quando il diametro è piccolo. Ecco perché è importante insegnare prevenzione e fare prevenzione. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Riparte oggi da Trieste il treno della memoria, iniziativa nata per ricordare l'anniversario dell'arrivo nella stazione di Roma Termini del convoglio su cui era posta la salma del Milite Ignoto, un viaggio di 5.000 km in 17 tappe fino a Palermo per un treno speciale inaugurato lo scorso anno e che proseguirà la sua marcia per raggiungere la capitale il 4 novembre. Il treno sarà accessibile al pubblico, dalle scolaresche dalle 9 alle 17 per la visita delle due mostre dedicate alla storia del Milite Ignoto, presenti a bordo, di cui una con cimeli storici e una multimediale. Siamo al calcio. Pordenone e Triestina fuori dalla Coppa Italia di Serie C, due sconfitte per 1-0 per le nostre squadre nelle partite secche che si sono disputate ieri. I neroverdi hanno perso a Legnano contro l'Imolese al termine di una partita sostanzialmente equilibrata e non ricchissima di occasioni. Decisiva la rete di Forti in pieno recupero su azione da calcio d'angolo. Battuta anche la formazione alla Bardata in casa dall'Arzignano. In questo caso il gol è arrivato a metà del secondo tempo, siglato da Antoniazzi su cross di Davi. Inutili gli sforzi finali per pareggiare degli uomini di Bonatti, con un paio di interventi decisivi del portiere ospite. Torniamo a parlare di Barcolana, ma dal punto di vista agonistico. Dopo il nulla di fatto nella prima giornata per mancanza di vento della regata dedicata ai maxi, ieri i 15 scafi iscritti sono partiti come previsto da Porto Piccolo, ma nel corso della regata il vento è calato e gli organizzatori hanno deciso di accorciare il percorso. I primi tre classificati in tempo reale sono Arca, Deep Blue e Porto Piccolo. Oggi spazio alla Barcolana Warm Up, dove tutte le imbarcazioni maxi potranno cimentarsi sul vero percorso della Coppa d'autunno. Siamo alla rassegna stampa, sono le 7:46 minuti, cominciamo dal Piccolo nelle due edizioni triestina e isontina. L'apertura è dedicata alla sanità in Friuli Venezia Giulia e più precisamente alle vaccinazioni contro l'influenza che si faranno anche in farmacia, questo è il titolo. Parte il progetto sperimentale associato alla campagna iniezioni al via il 12 ottobre, obiettivo copertura al 60%. Le grandi barche a vela nella fotonotizia, la sfida dei maxi, quella di ieri sulla quale vi abbiamo riferito poco fa, e alla Barcolana il Piccolo dedica un inserto all'interno del giornale. I titoletti di cronaca in prima pagina: l'hotel a Palazzo Pitteri sfratta dalla piazza, bar, banca e market, e poi il primo anno di Polidori alla guida di Muggia, la città è cambiata, dice il sindaco. La cultura in taglio basso all'ex pescheria, la street art invisibile del genio Banksy. Gli altri temi, la crisi dell'energia, sindaci in bolletta, chiesti aiuti per 1 miliardo entro l'anno. Capocronaca all'interno del giornale, siamo alla cronaca di Trieste, il futuro in versione hotel di Palazzo Pitteri, addio al bar, banca e supermarket, dunque la proprietà vuole ampliare gli spazi del vicino Duchi e collegare gli edifici con una passerella, mentre in un'altra pagina si legge che alle pendici di Scorcola è in via di costruzione un ostello su 4 piani. Una fotonotizia curiosa scelta come apertura dal Messaggero Veneto, edizione del Friuli. Va dal giudice col trattore, rinvii l'udienza, devo vendemmiare. La storia arriva da Faedis e vede protagonista l'imprenditore agricolo di Francesco Bertossi. Il giudice, riferisce il quotidiano, ha accolto la richiesta di rinvio. Sotto la testata il dossier CISL sulla crisi, la metalmeccanica e l'area di Pordenone, scrive il giornale, pagano il prezzo più alto. E ancora sono ripresi a Tarvisio i flussi del gas proveniente dalla Russia. Al centro il titolo è dedicato alla campagna anti-influenzale, mentre in apertura della pagina di cronaca udinese c'è l'imbrattamento del mural del sottopassaggio del centro studi, un lavoro degli artisti Vale e Delpini inaugurato il 29 settembre. Le foto mostrano il dipinto devastato da scritte e tag fatte con lo spray. Il piccolo di Gorizia Monfalcone, stesso titolo principale dell'edizione triestina, cioè sulle vaccinazioni contro l'influenza anche in farmacia, diversa la cronaca. La piscina di Gorizia amplia gli spazi, lavori da 1.500.000 euro. A Monfalcone l'anticorruzione vuole un nuovo assetto per Isontina Ambiente. È sempre in prima pagina un titolo su Ronchi, dove 50 anni fa ci fu il primo dirottamento di un aereo civile avvenuto in Italia. E a Cervignano, parco urbano alla Pasubio, stanziato dalla regione un contributo di 1 milione. Il Messaggero Vento, edizione di Pordenone, dedica la fotonotizia di prima pagina ai funerali di Armando Cimolai, notizia che apre anche le pagine di cronaca locale. Tra i richiami, in prima, quello al caro bollette nelle case di riposo. Dedicata alla campagna vaccinale anche l'apertura delle pagine friulane del Gazzettino. Vaccinazioni in farmacia, titola anche il quotidiano veneziano. Fotonotizia centrale sulle aggressioni verbali e non solo ai sanitari, un tema che abbiamo ampiamente trattato nell'edizione di ieri. Alla UIL sono arrivate 300 segnalazioni, subito esauriti i primi posti in un corso di autodifesa. Impostazione simile anche per le pagine pordenonesi del Gazzettino, dove però la fotonotizia è sui funerali di Cimolai in entrambe le edizioni, a fondo pagina spazio allo sport, con l'eliminazione del Pordenone dalla Coppa Italia in un caso e nell'altro con l'Udinese che prepara la sfida ad alta classifica di domenica contro l'Atalanta. Sono quasi le 7.50, c'è ancora tempo per qualche segnalazione prima di chiudere. Si chiama Racconti di Mare, l'incontro in programma all'Abbazia di Rosazzo alle 18, che vedrà protagonista il contrammiraglio Vincenzo Vitale della Direzione Marittima di Trieste. Un confronto sulle esperienze vissute dall'ufficiale di Marina in tanti anni di attività, ma anche sullo stato di salute del nostro mare e delle nostre coste, in dialogo con Vitale, direttore della sede regionale della RAI, Guido Corso. Si chiama Musica in Casa Morpurgo, l'appuntamento in programma oggi per l'Alto Livenza Festival 2022, un viaggio immaginario in Villa Varda Brugnera lungo quelle che potevano essere le serate musicali della nobile famiglia che ci abitava. Si comincia da Mahler e si prosegue con la musica di Guido Alberto Fano, compositore padovano a sua volta di origine ebraica. Eseguono gli strumentisti dell'ottetto della Darky Oberton con la pianista Irina Vaterl. Si comincia alle 20.45. Oggi la terza edizione del premio Midolini, incentrato sul tema delle smart energy. L'evento avrà luogo alle 17 all'IFIM della zona di San Gottardo, a Udine. 10 artisti presenteranno le opere che hanno progettato e creato per il parco, con soggetto l'arte e le energie rinnovabili che si intrecciano per rigenerare. Alle 17 al Circolo della Stampa di Trieste sarà presentato il libro di Paolo Morando, l'ergastolano, e centrato sulla strage di Peteano e sulla figura di Vincenzo Vinciguerra, il neofascista dichiarato colpevole dell'assassinio di 3 carabinieri del nucleo di Gorizia. Al Teatro Comunale di Cormons alle 20.30 lo spettacolo La scoperta dell'America 100 anni prima di Colombo, lo spettacolo della compagnia del Piccolo Teatro di Monfalcone. L'Associazione dei Genitori di Vermegliano, legata alla scuola dell'infanzia primaria di Ronchi, organizza alle 18 alla sala polifunzionale del Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia a Ronchi dei Legionari l'evento dal titolo Montessori, una scelta di vita, dalla casa al mondo, un percorso genitoriale pedagogico consapevole incentrato sul metodo educativo. Nelle 7.52 minuti chiudiamo questa edizione del giornale Radio Regionale, che è stata redatta da Andrea Saule e da Eva Ciucchi e Andrea Vardanega, che l'hanno anche condotta in studio, alla guida della parte tecnica Maurizio Simone Walter Vidonis, ha collaborato in redazione Manuel Bussani. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. A seguire la rubrica in friulano Vue o Fevelin D, che oggi parlerà del progetto di ricerca Inspire che coinvolge diverse università italiane ed è coordinato dalla giuslavorista dell'Ateneo di Udine, Marina Brollo, che sarà ospite del programma. Alle 11.19 circa riprende l'appuntamento con anziani, anzi no, in questo periodo il divario più sentito dalle persone anziane è forse quello digitale e verremo in aiuto delle persone coinvolte anche con le loro opinioni e molte proposte sul territorio. Alle 11.55 la prima puntata della nuova serie di Né Stato Né Mercato. Oggi incontriamo Leonardo Becchetti, ordinario di economia politica a Tor Vergata e direttore scientifico del Festival dell'Economia Civile di Firenze. Nella seconda parte il nuovo master in diritto e management del terzo settore promosso dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Trieste. Con noi ci sarà Andrea Crismani, direttore del master e docente di diritto amministrativo. Alle 12.30 l'edizione meridiana del GR con i programmi regionali che poi tornano alle 13.29. L'informazione dal territorio prosegue anche sul nostro sito rainews.it/tgr/fvg con una veste grafica rinnovata e sui nostri profili social TGR Rai FVG. Grazie ancora per essere stati con noi, buona mattinata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.